Here's the rest of the dialogue in the taxi. Nel taxi. La signorina americana è in vacanza? Non è americana, è inglese, vero? You are inglese, English, right? Sì, inglese, from Cambridge. Non è di Londra? No, I'm not from London. Are you from Florence? No, non sono di Firenze. Sono di Greve in Chianti, dove c'è la festa del vino. The Wine Fair. Ah, yes. When are we going there? Quando? Domani. Tomorrow. Ah, siamo all'albergo. Prendo la valigia della sua fidanzata. Fidanzata? What did he say? Niente. Nothing. Andiamo.